GR24, il sole 24 ore. Monti Italia, percorso di guerra. Pensioni, nessun allarme conti per il Super IMS. Il ministro Fornero, c'è sostenibilità. Napolitano, intesa subito sulla legge elettorale o la parola passi alle Camere. Buongiorno dalla redazione, da Adriana Fracca in primo piano l'assemblea dell'ABI. Gli interventi principali sono stati quelli del presidente dell'ABI Mussari, del premier Monti, del governatore di Banca Italia Visco. Ci aggiorna su tutto questo in diretta Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Parla di un percorso di guerra intrapreso dall'Italia per uscire dalla crisi il Presidente del Consiglio, un percorso arduo, lo definisce Monti davanti alla platea dei banchieri, perché è contraddistinto da uno spread che non riconosce i fondamentali del Paese e un debito che appesantisce l'economia, quindi l'appello alle parti sociali perché si remi tutti nella stessa direzione. Ma ascoltiamo un passaggio del Presidente del Consiglio Mario Monti. Credo anch'io che, senza che lo si possa sopravvalutare, il Consiglio europeo del 28-29 giugno, seguito dall'Eurogruppo dell'altro ieri, abbia segnato un progresso significativo, e siccome i mercati vivono naturalmente di messaggi di coerenza e di incoerenza dei messaggi, è facile che questa serie di decisioni assomiglia in qualche modo alla tela di Penelope, e questo senza nessun richiamo al grande storicamente paese al quale Penelope apparteneva. Così dunque Monti sul rapporto tra economia italiana e spread. Il paese è in recessione, dice quindi il governatore della Banca d'Italia Visco, che ribadisce la linea da seguire è quella che coniughi rigore e crescita. Ascoltiamo allora Visco. La differenza tra i rendimenti dei titoli pubblici italiani e tedeschi è di gran lunga superiore a quanto sarebbe giustificato dai fondamentali della nostra economia. Riflette generali timori di rottura dell'unione monetaria, un'ipotesi remota che sta però condizionando le scelte degli investitori internazionali. Dobbiamo continuare a rafforzare la costruzione europea, farla evolvere in una vera federazione, porre le basi di un'unione fiscale in cui le sovranità nazionali si arrestino lì dove inizia la condivisione di risorse e di responsabilità. La moneta comune può essere fonte duratura di stabilità e di progresso solo se viene fatta poggiare su queste basi. Rigore e crescita dunque fondamentali anche per il presidente dell'ABI Mussari, che punta però il dito su ciò che penalizza le banche, norme e fisco. Ascoltiamo allora Mussari. Varrà chiarire una volta di più come sia stata e sarà utilizzata la liquidità resa disponibile dalla BCE. Grazie alle due operazioni messe in campo si è evitata una drammatica stretta creditizia. Il suo ammontare netto è pari a 137 miliardi di euro. Tale liquidità è sostitutiva, non aggiuntiva. Deve aggiungersi che la critica per cui detta liquidità sia stata sottratta alle imprese per essere investita in titoli di Stato è del tutto sterile. In primo luogo, da un oculato sostegno al debito pubblico trae vantaggio l'intera economia nazionale. In secondo luogo, i titoli di Stato acquistati ben possono essere resi liquidi dalla stessa BCE. Ne deriva che in forza di detti acquisti, non un euro di potenziale liquidità per imprese e famiglie è stato sottratto all'economia reale. All'ABI, e da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta, ed ora diamo uno sguardo ai mercati finanziari con Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno, questo spread frustrante per il governo, per usare le parole di Mario Monti, oggi viaggia a 454 punti base, è in ribasso rispetto ai livelli degli ultimi giorni, rispetto anche alla chiusura di ieri a 463, ma è ancora su livelli piuttosto alti, molto alti e dunque inaccettabili, come il governo ma anche Visco dicevano appunto poco fa. In questa giornata in cui, per quello che riguarda le borse, invece dopo una partenza negativa adesso c'è un cambio di direzione per gran parte dei listini, con l'unica eccezione di Parigi che ancora mantiene il terreno negativo ed è a -0,13%, ma in avvio Parigi perdeva quasi un punto, Londra -0,05%, mentre passa in positivo Milano +0,09% e Francoforte +0,6%. Da segnalare, per quello che riguarda Francoforte, che stamattina la Bundesbank ha collocato Bund a 10 anni al tasso medio dell'1,31%, siamo al nuovo minimo storico e anche questo conferma appunto lo spread di cui parlavamo poco fa, visto che i titoli di Stato invece italiani sulla scadenza decennale rendono quasi il 6%. A Milano i migliori titoli sono quelli del settore bancario, particolarmente Unicredit. Oggi va bene dopo il varo di un maxi piano di riorganizzazione, un nuovo assetto organizzativo, il cui completamento è atteso entro fine di quest'anno. Il titolo vale il viaggia con un rialzo del 2,42%, mentre l'euro sul dollaro sta tentando di riportarsi a 1,23. Per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Dopo l'allarme sul Super IMS, il ministro Fornero rassicura: non c'è nessun rischio pensioni. Il disavanzo dell'INPDAP, spiega il ministro, è conosciuto dallo Stato, sarebbe stato coperto e sarà comunque coperto adesso. Le istituzioni internazionali, aggiunge, certificano la sostenibilità dei conti. Rassicurazioni sulla sostenibilità del sistema pensionistico arrivano anche dal presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. La sostenibilità del sistema pensionistico, sia pubblico che privato, oramai è certificato sia dalle riforme fatte fino ad oggi, l'ultima, la Montifornero, che soprattutto è stato validato da tutti quanti gli organismi nazionali, Ragioneria, Banca d'Italia, internazionali, dall'Unione Europea alle Commissione Europea, addirittura all'OCSE. Esiste e nessuno lo nega, tant'è che il nostro bilancio lo rappresenta correttamente, un disallineamento finanziario, cioè uno squilibrio finanziario tra le entrate e le uscite nel mondo impeto. Esisteva l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa e non è mai successo nulla, nel senso che lo Stato giustamente si fa carico anticipando queste risorse nei confronti dell'istituto. Quello che si è fatto prima sarà fatto nel futuro, nessun rischio, nessun allarme, ma problemi contabili e tecnici che non hanno nessuna ripercussione sui singoli cittadini e pensionati. Quindi questo rosso che proviene dall'ex INPDAP comporterà problemi nel pagamento delle pensioni? Assolutamente. No, le pensioni sono state pagate, sono pagate e saranno pagate sempre, è un problema prettamente contabile di disallineamenti finanziari all'interno dell'INPDAP, è una questione che esisteva anche negli anni passati e lo Stato si è sempre fatto garante di questo qui anticipando le risorse, è stato fatto nel passato e fatto nel futuro, le riforme sono servite anche a questo. Oggi incontro tra il Premier Monti e i presidenti delle regioni sul decreto sulla revisione della spesa dopo i sindacati contrari al provvedimento, i farmacisti. Contro la revisione della spesa pubblica, Federpharma decide la serrata delle farmacie per il 26 luglio e minaccia la disdetta delle convenzioni col servizio sanitario. I nuovi tagli previsti dal decreto, secondo i farmacisti, stanno facendo saltare il sistema delle farmacie italiane, mettono a rischio la stessa distribuzione dei farmaci ai cittadini e cancellano circa 20.000 posti di lavoro. Neppure la disponibilità espressa dal ministro della Salute, Renato Balduzzi, per avviare un tavolo sul sistema di remunerazione delle farmacie è bastato ad evitare o posticipare la decisione. Monta anche la protesta dei governatori delle regioni. Ora il decreto dovrebbe essere corretto al Senato, dove è attualmente all'esame della Commissione Bilancio. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora veniamo al dibattito politico sulla legge elettorale. 2 giorni fa il suo appello era stato subito accolto dai presidenti delle due Camere, un po' meno forse dai partiti. Anche per questo da Lubiana, dove si trova in visita di Stato, oggi il presidente della Repubblica, Napolitano, è tornato a sollecitare le forze politiche sull'urgenza di una nuova legge elettorale. Sono ritenuto che fosse oramai il momento di portare alla luce del sole l'esito dei tentativi di intesa che ci sono stati. Naturalmente mi auguro che si arrivi ad un'intesa e comunque ad un confronto conclusivo nella sede parlamentare. Il confronto sulla nuova legge elettorale partirà dal Senato, dove nel frattempo, sostenuta dall'asse PDL Lega, avanza anche la riforma costituzionale semipresidenzialista. A Palazzo Madama in 10 giorni si proverà ad arrivare ad una proposta condivisa per superare il Porcellum, un traguardo che appare però difficilmente raggiungibile viste le distanze fra le posizioni delle varie forze politiche. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Silvio Berlusconi si candiderà alle prossime elezioni alla guida del PDL. Passerà l'estate ad Arcore per preparare la sua nuova discesa in campo. Alessandro Milan ha intervistato Daniela Santanchè. Io lo dico da molto tempo che Berlusconi è il nostro candidato premier. Noi non abbiamo nessuno di meglio di Silvio Berlusconi. Io auspico politicamente che sia lui, perché vede, sino adesso le discussioni, le cose all'interno, anche nostro del PDL, ci lasciano un po' distanti dalla gente, dal popolo. Berlusconi invece è sempre col popolo, è in sintonia. La Guardia Costiera tunisina l'ha trovato di notte aggrappato a una tanica. Si tratta di un tunisino di 25 anni rimasto solo dopo che tutti i suoi compagni di fuga, 54 persone, sono morti disidratati dopo 15 giorni e mezzo al mare sopra di un gommone. Laura Boldrini dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati Politici ricostruisce la vicenda al microfono di Paolo Panceri. Sentiamola. L'abbiamo saputo dalla Guardia Costiera tunisina e i nostri colleghi a Zarziz sono andati a visitare in ospedale questo superstite. E l'uomo, che poi è un giovane di 25 anni, ha raccontato quanto è accaduto. Dice che l'imbarcazione è partita dalla Libia negli ultimi giorni di giugno, che erano in 55, che hanno appunto navigato verso le coste italiane, ma a un certo punto però hanno avuto problemi all'imbarcazione, al motore, e che la loro deriva è durata circa 15 giorni senza che nessuno si sia avvicinato a soccorrerli. Dice anche che i compagni sono morti perché nessuno è stato autorizzato a portare a bordo acqua, e dunque il problema principale è stata la mancanza di acqua. Lui si è salvato, ha bevuto le sue urine, ha bevuto acqua del mare, ma anche lui adesso è ricoverato e sta in condizioni abbastanza critiche. Lo hanno trovato alcuni pescatori che poi hanno segnalato appunto la sua presenza alla Guardia Costiera tunisina, che è intervenuta e lo hanno subito ricoverato. Lui era aggrappato a una tanica, stava fluttuando, stava in mare in uno stato di semincoscienza. Era una barca di rifugiati politici oppure si trattava solamente di immigrati che scappavano per motivi economici? L'unico superstite può parlare per sé. Lui dice di aver perso 3 parenti che erano sulla stessa imbarcazione. Lui, eritreo, sostiene che più della metà di queste persone erano eritrei, e normalmente gli eritrei fuggono dal proprio paese e cercano protezione. Negli ultimi giorni sono arrivati in Italia diverse imbarcazioni con somali e eritrei che, fuggiti dal loro paese, si trovano in Libia, ma in Libia chiaramente non ci sono le condizioni per poter stare, per poter vivere in sicurezza, e quindi, non avendo scelta, l'unica possibilità che hanno è quella di continuare il viaggio e attraversare il Mediterraneo. È crollato stanotte gran parte dell'affresco della volta raffigurante l'Allegoria di Roma nella Sala della Lupa a Montecitorio. Si tratta di un dipinto del 1884 di Ignazio Perricci. Già effettuati i sopralluoghi dalla Direzione per i Beni Culturali del Lazio per i primi interventi di ripristino. È tutto per questo notiziario. Un saluto da Adriana Fracchia. Il notiziario è stato curato da Daniele Biacchessi. Ringrazio in regia Paolo Corleoni. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.